Incontri di Gianfranco Fabi. Buonasera, buona serata a tutti quanti e buona serata a Franco De Benedetti. Buonasera agli ascoltatori. Con le note del Fidelio di Beethoven, l'unica opera realizzata da Beethoven, iniziamo questo nostro incontro. Franco De Benedetti, prima di parlare di lei, perché ha scelto il Fidelio? Perché questo quartetto del Fidelio? Ma intanto il Fidelio è l'opera della libertà, è un inno alla libertà, una denuncia del totalitarismo, dell'ostilità politica portata alla carcerazione, alle prigioni, alla violenza fisica. È un'opera del sopruso, è un'opera quindi di ricerca anche della liberazione da questo sopruso, della ricerca anche di regole che possono aiutare ad uscire dai soprusi dei potenti. Sì, diciamo che ha un po' tutta l'ideologia di quel momento della vita di Beethoven, della vita tedesca, tra l'illuminismo e il romanticismo, che è un momento particolarmente magico, direi. Ecco, un momento forse che si guarda... Ma anche significativo, ma anche... Io l'ho preso, proprio perché mi piace moltissimo, certo. Evidentemente, anzi, questo quartetto Miris so Wonderful, non riesco mai a sentirlo senza fisicamente commuovermi, ma soprattutto perché è un inno alla libertà, e soprattutto nel secondo atto il coro, tutti ricorderanno il coro dei prigionieri, e quindi un inno della libertà. E siccome in quest'ultima parte della mia vita, forse in buona parte della mia vita, ma soprattutto in quest'ultimo in modo esplicito, essendo presidente dell'Istituto Bruno Leoni, che si occupa proprio di diffondere le idee di libertà, di libertà economica, di libertà tout court, e quindi mi sembra che sia particolare, per me è particolarmente significativo. Quindi Franco De Benedetti, ha già anticipato, appunto presidente dell'Istituto Bruno Leoni, imprenditore politico, 80 anni portati benissimo, con grande dinamismo, ha anche quest'ultimo ruolo per adesso, momentaneamente ovviamente, è stato presidente della CIR, è stato impegnato nella Fiat, nel gruppo De Benedetti, è fratello di Carlo De Benedetti, da cui si distingue peraltro dal fatto di avere il De Benedetti tutto unito e non separato. Questa è una frivolezza? No, questa è la versione filologicamente corretta. E quindi sbaglia suo fratello? No, non è che sbaglia, voglio dire, se lei dice De Benedetti in giro, se non dice attaccato, glielo scrivono staccato. Ecco, nella sua biografia c'è scritto 17 anni nell'azienda familiare, 18 anni nelle grandi multinazionali, poi 12 anni di attività politica e pubblica, è stato senatore del Partito Democratico, e negli ultimi anni un impegno per promuovere nuove imprenditorialità, realizzare nuovi investimenti. È presidente appunto dell'Istituto Bruno Leoni, l'abbiamo detto, un istituto che ha come obiettivo quello di promuovere l'idea liberale, ed è anche consigliere dell'ISPI, Istituto di Studi per la Politica Internazionale. Quindi una lunga attività, adesso poi la vedremo. Forse possiamo partire dal fatto che c'è stato un intermezzo politico, un impegno politico all'interno del Partito Democratico. Per un liberale cosa ha voluto dire un impegno del Partito Democratico? Scusi se la contraddico, io non lo considero un intermezzo. Non lo considero un punto di svolta tra l'attività imprenditoriale e l'attività, di avere a che fare con le idee. Io tra l'altro scrivo abbastanza, mi piace anche abbastanza scrivere sul Sole, in modo particolare sul Sole. E no, bisogna ritornare al clima del 92-94. Quello è stato un clima di momento, si è avuto la sensazione, oggi si dice prima, seconda repubblica, ma bisogna ritornare a quello che si provava e che si pensava e che si discuteva, le cose che ci appassionavano in quel momento lì. Quel momento si aveva veramente la sensazione che si poteva essere un punto di svolta, non sia stato, questo è un altro discorso, ma la sensazione vivissima, la vitalità che c'era di voglia di cambiare. Non tanto rispetto a Mani Pulite, il momento della degenerazione, questo era perfino ovvio, ma rispetto a quello che c'era stato prima, quello che va portato alla degenerazione di Mani Pulite. Ora, in quel momento c'è stato, qualcuno ricorda che c'è stato Nando Adornato che aveva cercato di realizzare qualche cosa che poi, con un po' di generosità, si può dire che sia stato l'antesignano dell'Ulivo, cioè cercare di mettere insieme quello che poi si è chiamato tutti i riformismi. Io ero vicino a Giorgio Lamalfa, insomma, un po' Bruno Visentini soprattutto, quindi diciamo il mondo dei repubblicani mi era abbastanza contiguo come frequentazione, insomma, mai avuto la tessera del Partito Repubblicano, ma comunque erano vicini come idee, come frequentazioni. Il Partito Repubblicano era, diciamo, la UIL e il Partito Repubblicano erano particolarmente, avevano una base particolarmente importante, certo, in Ivrea, nel Canavesano, e in Olivetti si ricollegavano un pochino anche le idee di Adriano Olivetti, se vogliamo. Quindi quando così mi sono trovato a lavorare un po' con Nando Adornato, un giorno gli ho chiesto se mi avrebbe candidato, ha detto di sì, mi sono candidato. Ho vinto le elezioni e sempre ricordo che ho fatto 3 campagne elettorali. Il momento della campagna elettorale è un momento estremamente importante. Se mi permette le polemiche, lei sa che non mi dispiacciono le polemiche. Ecco, quando penso a persone, in questo momento penso a una in particolare, lei mi dirà subito chi è, capirà subito chi è, che vanno ai posti di potere più importanti senza essere passati da una campagna elettorale, ecco, bisogna provare che cosa vuol dire. Ma perché la campagna elettorale ti mette a nudo, la campagna elettorale ti dice, ti obbliga a dire come sei, e se non lo dici te lo dicono anche gli altri. Ma fatta nei mezzi di comunicazione o fatta tra la gente? Si può nei mezzi di comunicazione, se ti prendono, evidentemente quando non sei molto conosciuto non è che ti prendano tanto, bisogna farsi spazio nei mezzi di comunicazione, ma soprattutto nel contatto con la gente, proprio fare la campagna elettorale quando c'era il maggioritario, quando non è che era la segreteria del partito che ti mandava. Quando si dice male del Porcellum si dimentica che si leva un punto fondamentale della vita democratica, che è quello del momento in cui il candidato deve andare di fronte, deve cercare di prendere la gente, trovare la gente, parlargli, convincerli e sentire anche gli oppositori. Questo è uno dei momenti più vivi. Adesso io non vorrei desidealizzarlo troppo, però per me sono stati tre momenti importanti. È un momento importante quello di entrare nella politica in questo modo, in maniera partecipata, ma è un momento importante anche quello di avere un impegno politico, il suo impegno, la sua direttrice è stata la libertà economica per lo sviluppo dell'impresa privata. Ecco, dopo 12 anni di impegno politico, il bilancio di questo obiettivo, qualche passo avanti è stato fatto o no? Se posso correggerla, per lo sviluppo del paese, non per lo sviluppo dell'impresa privata, perché io sono convinto che ci sono dei casi in cui non necessariamente l'intervento pubblico è negativo, però ci sono anche casi in cui le aziende di proprietà pubblica sono efficienti, però generalmente per il fatto stesso di essere di proprietà pubblica hanno con sé un che di monopolistico, che sia esplicito o che non sia esplicito. Perché fare concorrenza allo Stato è particolarmente difficile, cioè il Stato ha mille modi per violare la concorrenza, modi, certo, per influenzare la concorrenza, per disincentivare e quindi tenere distanti gli investitori privati dall'occuparsi di quello. Solo negli Stati Uniti succedono queste cose straordinarie, in cui vediamo che Bezos, l'inventore di Amazon, adesso si mette a fare concorrenza alla NASA, perché dice voglio fare dei voli orbitali o suborbitali low cost. Perché quello è un paese, quello in fondo è l'unico paese in cui veramente c'è un mercato, anche per la sua dimensione, per la sua storia, ma per le idee. Io sono convinto che sono le idee che muovono il mondo e per questo sono molto contento, trovo una certa soddisfazione, trovo un certo significato nell'essere passato nella vita dal fare le cose al fare politica e al ragionare sulle cose. Ecco, anche riparleremo appunto di questo percorso e anche di che cosa le idee hanno ancora da fare in questo paese. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico, ma restate con noi, proseguirà dopo il nostro incontro con Franco De Benedetti. Incontri. Ich ancora con le note di Ludwig van Beethoven, con il Fidelio. Riprendiamo il nostro incontro, questa, appunto, con questa immagine, con questo suono, con queste voci molto, molto romantiche, che sono un anelito alla libertà, l'abbiamo detto nella prima parte. Riprendiamo il nostro incontro con Franco De Benedetti, imprenditore, politico, presidente dell'Istituto Bruno Leoni. Abbiamo parlato nella prima parte del suo impegno politico, dell'impegno politico all'interno del Partito Democratico, durato 12 anni. Io vorrei riprendere poi, anche per avviarci alla conclusione, in questa seconda parte, anche il suo impegno imprenditoriale. Sono per 14 anni amministratore delegato dell'Olivetti negli anni 80. Ha iniziato, è stato ingegnere elettrotecnico, laureato in ingegneria nel 56 al Politecnico di Torino e poi specializzato in ingegneria nucleare. Ecco, ingegneria nucleare allora, negli anni 50, c'era forse una grande prospettiva di sviluppo, poi sappiamo tutti com'è finita. Anche nel campo dell'informatica c'erano delle solidissime basi dell'Olivetti, due settori in cui l'Italia ha perso poi un po' il treno. Franco De Benedetti. Ma sono state due storie diverse. Quella nucleare, sappiamo benissimo come è finita. Beh, c'era già allora la questione della magistratura, un'indagine su Ippolito per l'uso di un'automobile durante le vacanze, le cose che assolutamente cretine. Praticamente è stato quello che ha, diciamo, è stato sfruttato per mettere fine a quella storia. Per l'Olivetti la storia è completamente diversa. Sa, l'Olivetti, lei ricorda che c'è stato un gruppo di intervento dopo la morte di Adriano Olivetti, che c'è stato il gruppo di intervento. L'Olivetti era fortemente impegnata nella creazione dei grandi calcolatori. Ora, non dimentichiamo che in tutta Europa tutti quelli che hanno provato a fare grandi calcolatori o ci hanno rimesso soldi loro o ci hanno rimesso soldi dallo Stato. Quindi, tutto sommato, mi domando se quella cosa lì che è stata tanto criticata, e ancora in Olivetti moltissimo criticata, di avere impedito questa cosa, non è stato forse una cosa buona per l'Olivetti e per il paese. Non dimentichiamo che l'Olivetti è diventata Olivetti Informatica Distribuita, e cioè sull'idea che è oggi, sull'architettura di sistema, che è quella che poi è diventata quella prevalente oggi, ovviamente col web, con tutte cose che qui allora non si poteva neanche immaginare l'esistenza, se quella non è stata una cosa tutto sommato buona. No, io vorrei dire sulla mia storia, diciamo, di imprenditore. Io ho incominciato a lavorare in un'azienda di mio padre che aveva 82 persone, mi sembra. Il punto più alto, se vogliamo, più grosso, è stato quando in Fiat avevo 45.000 persone. Ecco, questa è la cosa che, secondo me, che l'idea che è nelle piccole unità, nelle piccole aziende, che succede qualche cosa di importante. Che è lì che incomincia, e questo è un'idea che mi ha sempre, tra l'altro, anche nella mia vita imprenditoriale, io sia in Olivetti sia in Fiat mi sono sempre occupato di agglomerati, di grandi agglomerati di piccole aziende, e credo di aver avuto, portato dall'esperienza le prime esperienze sono quelle che contano, certo. Portato l'idea che lì dentro succede qualche cosa. Anche in politica è così, anche nelle privatizzazioni. Può rivelare un piccolo segreto: lei è entrato in Fiat, appunto, gli ha parlato di Fiat insieme a suo fratello è uscito dopo 100 giorni, lei è rimasto. Beh, lui era amministratore delegato della Fiat, prima vicepresidente, poi amministratore delegato della Fiat, evidentemente aveva prospettive e traiettorie completamente diverse. Io mi era stato dato di occupare, ma occupati un po' di tutte queste aziende che ci sono intorno alla Fiat, che sarebbe quello che era l'indotto di proprietà della Fiat, e quindi il rapporto con l'indotto vero, eccetera, la possibilità di trovare dei clienti che fossero fuori dalla Fiat. Sono tutte storie che si dava del tempo a raccontare. Quindi erano due strade già separate come impegno e responsabilità. Com'è che nasce l'innovazione? Da dove nasce l'innovazione? Questo è, secondo me, il fatto che avvenga nelle piccole aziende. Per questo è stato che quando si è trattato di fare le privatizzazioni, io lo voglio ricordare perché il Sole mi ha dato una grossa, il Sole 24 Ore mi ha dato allora una grossa mano nel dare, diciamo, voce alla battaglia sulla privatizzazione e a questa impostazione della privatizzazione. Non l'errore, se c'è stato, per carità, le privatizzazioni sono state un grande fatto positivo, però se si è fatto un errore, forse necessario, ma un errore, è stato quello di privatizzare in blocco le grandi finanziarie. Bisognava fare l'analisi di tanti business che c'erano intorno alle all'interno delle grandi aziende, delle holding, e privatizzare quello, perché diciamo, la struttura imprenditoriale di questo paese così è fatta. E quindi, tra l'altro, sempre il problema di come nascono le aziende, come nasce l'innovazione, è un problema che mi ha sempre occupato. C'è stata una cosa che lei non ha citato, di cui però sono particolarmente fiero, l'Interaction Design Institute di Ivrea, che è stato nato su, diciamo, su richiesta di Colaninno, dopo che aveva preso il controllo della Telecom, e che poi il successivo passaggio a Tronchetti Provera ha chiuso, ma è stato molto, è stato un periodo estremamente importante. Proprio quello che cosa aveva lo scopo di capire quali sono. Si può in qualche modo progettare il successo, si può sapere quale innovazione avrà successo e quale no. C'è qualche cosa di comune. Ecco, gli studi intorno a questo sono stati, tra l'altro, con buon successo. Leggevo alcune settimane fa su Nova l'inserto domenicale del Sole 24 Ore, proprio sul web, in modo particolare sull'information technology, che Arduino, l'azienda che è diventata è stato scelto da Microsoft, non so più, ricordo più se Google o Microsoft, è passato qualche settimana, per diventare l'open source di quelli che si fanno le schede per conto loro. E questa è una piccola multinazionale, e questa è nata proprio, è proprio uno delle start-up che è nata da Ivrea. Ecco, proprio per far nascere nuove imprese, nuove realtà imprenditoriali, la creatività, l'innovazione, l'invenzione, c'è bisogno però di un terreno favorevole. Il suo impegno attuale come presidente di Istituto Bruno Leoni forse va in questa direzione, nella direzione di creare un terreno favorevole a che la libertà possa esprimersi e possa valorizzare le capacità soprattutto dei giovani. Sì, diffondere idee è la cosa, averle non parliamone, ma diffondere idee è la cosa più difficile e più importante, ed è quello che in piccolo e in grande cerchiamo di fare. Credo che in piccolo come le risorse che impegniamo e credo abbastanza in grande come risultato è quello che cerchiamo di fare. Ecco, però la realtà italiana, la realtà politica, anche la realtà imprenditoriale, anche la realtà sociale, forse vuole un po' più di garanzia in questa fase, cerca uno stato protettore, cerca un po' di monopolio da parte degli imprenditori, cerca qualche elemento. Forse è più difficile in questo momento, in questo 2013, essere liberali. Ma guardi, se guardi indietro, molto facile non è mai stato. Forse in questo momento è chiaro che in questo momento la ricerca di protezioni è particolarmente vivace. In certi momenti sono le ricerche di protezione, in certi momenti sono le ricerche di, chiamiamole eufemisticamente, opportunità, cioè, o di vantaggi, perché sa, c'è l'uno e l'altro, bisogna riconoscerlo. Quindi io credo che però è importante sapere che non c'è nessuno, mai come adesso, è chiaro, che lo Stato non ha i mezzi per darti la protezione. Sei tu che ti devi proteggere da solo, sei tu che devi trovare da solo, non tanto proteggere, devi venirne fuori da solo. Qui se non ne veniamo fuori come paese. Noi, d'altra parte, è anche fin troppo ripetuto che noi abbiamo conosciuto momenti in cui questo c'è stato. Non è così alieno dal nostro modo di pensare, anzi, direi che ma anche prima del miracolo economico. Ma forse c'è ancora adesso, ci sono molte iniziative positive, imprenditori che vanno all'estero, imprenditori che innovano, ma forse il bene, le cose positive fanno poco notizia, siamo un po', forse anche proprio per noi di giornalisti, un po' più portati a accentuare quello che non va bene, diciamo un po' a piangerci addosso, piuttosto che a valutare positivamente e a valorizzare quello che va bene. Senta, lei... Il Sole certamente lo mette abbastanza in rilievo. Per esempio, ci sono in Italia delle aziende, ma non sono poi tanto poche, né il PIL interessato è così piccolo, che hanno aumentato, che anche in questi anni hanno aumentato le loro esportazioni. Quindi si dice che in questo paese non funziona niente, che c'è quella che gli economisti chiamano produttività totale dei fattori, incide negativamente sulle nostre attività. È vero, però queste aziende ce la fanno. Allora vuol dire che se queste aziende sono efficienti in un paese di per sé non efficiente come l'Italia, vuol dire, siccome la media nostra è che perdiamo competitività, vuol dire che c'è una parte del paese che è doppiamente poco competitiva. e sappiamo dove è collocata, perché cioè, quando il pubblico intermedio è il 50% del PIL, vuol dire, sappiamo bene che sono quelli che non sono esposti, i settori che non sono esposti alla concorrenza, i non tradable si chiamano. E quelle, sappiamo che e lì evidentemente c'è una inefficienza che è ancora maggiore di quello che la media dice. E quindi non ragionare mai con le medie, le cose piccole sono quelle che contano. Il pubblico, il sistema pubblico dovrebbe imparare un po' di più dalla competizione del privato, dalla volontà anche di premiare il merito e le capacità. Anche questo forse. Sì, adesso hanno messo lo zar della spending review, no? E speriamo che sia la strada giusta. Anche lì io credo che non c'è altro che la faticosa ricerca, più faticosa, ma anche più interessante ricerca, tutti gli spot di inefficienza che ci sono, quanti uffici che l'unica cosa da fare è chiuderli, quante cose che si possono sopprimere. L'idea che le privatizzazioni, oggi si discute tanto, ma la privatizzazione, lo scopo della privatizzazione è di ridurre l'impronta dello Stato, prendere delle cose di cui lo Stato deve occuparsi e da quel giorno non se ne deve più occupare. Stanno bene o male, ma se ne occupa qualcun altro. Vedremo se questa logica potrà fare dei passi avanti. E anche l'esigenza poi di rendere più razionale lo Stato, di ridurre la spesa pubblica, di ridare un po' di respiro alle persone e alle imprese, alle possibilità di crescita. Dobbiamo fermarci qui. Ringraziamo Franco De Benedetti, presidente dell'Istituto Bruno Leoni, in questa fase della sua vita. Lo ringraziamo di essere stato con noi, lo ringraziamo anche del suo impegno sociale e civile, così come ringraziamo Fabio Cantadori in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.